Bokoyo, e uti nikolo e kiti pona bayenge bene. Yangonde Yerusalemi mwasi na Yesu. Yowana mona ngokala, pia soso lisa miso lisolo. Haleluya. Bokoyo etonga yawe, etonga mana wolo. Batwa masumu bako kite, wota na mboka yango. Yoki passi la sina ma bene, buona cotossa per quella da Yesu. Alleluia!